Le origini e Santa Filomena. Gli inizi di una fama mondiale. Vedere un uomo che, vivente ancora, è visitato in pellegrinaggio e che le folle venerano come una reliquia è un fatto che, dopo le meraviglie dei padri del deserto e della loro lontana Tebaide, si contempla di rado. Ebbene, per 30 anni l'umile villaggio d'Ars fu appunto il testimonio di questa meraviglia e vide moltitudini incessanti di pellegrini che si inchinavano ai piedi di un santo. Dal 1827 al 1859 la chiesa d'Ars non fu mai senza fedeli. Tuttavia furono persone semplici e devote e non altro che cominciarono a diffondere la sua fama. Solo più tardi a queste prime voci fece eco la parola di persone distinte per il loro carattere, la loro età e la loro posizione. Don Vianney aveva lasciato a Dardilly, suo paese natio, e a Edecugli, dove era stato per 3 anni come vicario, un ricordo di santità. Già nel 1818 vennero ad Ars persone di questi paesi. Altri giunsero perfino da Noè, percorrendo 100 chilometri di cammino per rivedere Jerome, divenuto sacerdote e parroco. Molti fecero sotto la sua direzione gli esercizi spirituali e 3 o 4 si stabilirono definitivamente nel villaggio di Ars. Da questo tempo la fama della santità del curato d'Ars si divulgò sempre più. Nel 1822, racconta Monsignor Mermod, ero professore nel seminario minore di Messimier, quando Don Vianney venne a visitare Don Laurat, suo antico condiscepolo diventato superiore della casa. Appena giunto, attraversò il cortile della ricreazione ed entrò nella casa per l'adorazione al Santissimo Sacramento. Poi fece la visita al superiore. Quando entrò nel cortile si udì un grido: «È il santo curato d'Ars!» Era un allievo che lo conosceva, Antonio Raimond, suo futuro ausiliare. Tosto i giochi cessarono e gli occhi di tutti furono fissi su di lui. Antonio Raimond, giovane di 16 anni, era di Farem e aveva sentito parlare di Don Vianney nella sua parrocchia natale. Come è naturale, le proteste perfide o violente di alcuni abitanti di Ars, gli elogi di altri, non avevano potuto rimanere senza eco nei paesi vicini. Si desiderò conoscere quel sacerdote di cui i suoi fedeli dicevano tanto bene o tanto male. Chi non era corrotto fino al midollo non stentò a comprendere da che parte si trovava la buona fede e la verità. Trevaux, capitale della regione della Dombe, non tardò a farsi del curato d'Ars un'ottima opinione. Già abbiamo visto che durante la grande missione del 1823, 3/4 dei penitenti di quella città vollero confessarsi da lui. La medesima cosa si verificò nel 1826 per il giubileo concesso da Leone XII. I sacerdoti di Sévigné, di Montmerle, di Saint-Rivier, di Chanin, di Saint-Bernard e d'altri paesi, che ebbero la fortuna di essere aiutati dal santo nel ministero della predicazione o della confessione, sorpresi del buon successo, dovettero proclamare la sua insigne virtù. Ma non prevedevano certo che alla vigilia delle feste, e più spesso ancora, varie persone della loro parrocchia, e per di più le migliori, avrebbero fatto il viaggio fino ad Ars per chiedere al santo di continuare a dirigere la loro anima. E fin dal 1827 si cominciò ad affrontare anche gli incomodi di lunghi viaggi pur di ricorrere ai lumi del santo uomo. In quell'anno, riferisce Monsignor Mermod, fui nominato parroco di Chalais. Ovunque si parlava della santità di Don Vianney d'Ars, e molte persone della mia parrocchia andavano a confessarsi dal servo di Dio. Devo dire che esse erano l'edificazione di tutti. Nel 1827, secondo Giovanni Pertinan, si vedevano ogni giorno venire ad Ars una 20ina di pellegrini. Nell'ottava del Corpus Domini, la giovane contessa Laura di Garez veniva per un primo soggiorno nel vecchio castello, dove avrebbe preso stabile dimora nel 1834. Ogni sera andava alla benedizione. La piccola chiesa d'Ars, scriveva ella a suo padre, il signor Colombier, è piena di fedeli, fra i quali sono numerosi i forestieri. Le mura tappezzate di drappi e di stendardi, il tabernacolo splendente di dorature, lo stensorio smagliante di pietre preziose, una gran quantità di ceri, un prete estenuato dai digiuni e dalle veglie, che con voce debole pronuncia una preghiera dalla quale esala il suo amore. Ecco, concludeva la pia donna, lo spettacolo incantevole che si offre a noi tutte le sere. Secondo la testimonianza degli anziani, si sa che il pellegrinaggio era già numeroso nel 1828. L'anno seguente il santo prete sarebbe diventato prigioniero delle anime e solo la morte lo avrebbe liberato da questa sacra prigionia. Ogni tanto gli faceva visita a Monsignor Mermot, parroco di Chalais. Un giorno Don Vianney accolse l'ospite con queste parole: «Il vostro buon angelo vi ha suggerito un buon pensiero, ispirandovi di venire a trovarmi». E l'altro gli rispose: «A voi sembra che il vostro angelo non suggerisca mai di rendermi la visita? Non posso, sono sempre molto occupato». Non si deve pensare che già fin da principio tutti coloro che si dirigevano ad Ars vi fossero spinti dal desiderio di confessarsi dal santo. La curiosità ebbe la sua parte, soprattutto per le voci insistenti che il curato d'Ars leggeva nelle coscienze e faceva miracoli. Si aveva dunque un vero santo in un angolo della Francia? Le folle lo pensarono e si mossero per vederlo. Fu scritto che anche gli uomini non credenti hanno tale bisogno di santità che corrono ad essa appena in qualche modo si manifesti. Sono molteplici le vie che la grazia di Dio segue per insinuarsi nei cuori. Se nei primi tempi furono molti i curiosi, non poco di essi se ne ritornarono dopo di essersi confessati e convertiti. Del resto, alcuni si sentivano spinti verso Ars da un'attrattiva che essi medesimi non sapevano spiegarsi, ed altri vi andavano, già sostenuti dalla speranza di trovare ai piedi del santo il coraggio di confessare le proprie miserie ed il rimedio per guarirne. «Signor curato», gli diceva ingenuamente Caterina Lassagne, «gli altri missionari corrono in cerca di peccatori, anche in paesi lontani. Qui, invece, sono i peccatori che cercano voi». Soprannaturalmente felice di questa constatazione, il santo rispondeva con pari semplicità: «È proprio quasi vero». E ci furono presto anche delle prove. Nel 1828 o 1829, una sera, finita la preghiera in chiesa, Don Vianney era appena salito in camera. Ad un tratto sente bussare vigorosamente alla porta del cortile. Dopo due o tre chiamate, sempre più energiche, finalmente il santo uomo, che aveva motivi di diffidare, si decide a discendere per aprire. C'è ad attenderlo un carrettiere che ha lasciato il suo veicolo alla porta della chiesa. «Venite», gli dice, «sono deciso, voglio confessarmi subito». Il curato d'Ars e le grazie di Santa Filomena. Quando si cominciò ad attribuire un potere miracoloso alle preghiere di Don Vianney? Senza dubbio i primi prodigi di Ars, la moltiplicazione del grano e della farina avvenuti circa il 1830, furono presto conosciuti dagli abitanti di Ars e dai pellegrini che già venivano in gran numero. La voce di questi fatti straordinari infastidì il giovane curato, che tremava al pensiero che a lui se ne attribuisse la gloria. Presto si unirono alla folla anche degli infermi e dei malati. Parecchi, essendosi raccomandati alle preghiere del santo, ottennero qualche sollievo ai loro mali o anche la guarigione. Naturalmente se ne parlava. Il maestro Pertinan dice: «Il curato raccomandava il silenzio e la gente temeva di recargli dispiacere proclamando le grazie ottenute. Ma le cose andarono ben diversamente dal giorno in cui fu introdotto in parrocchia il culto a Santa Filomena. Ad essa il servo di Dio attribuiva il merito dei prodigi che si operavano. Ascriveva a lei tutte le grazie che resero celebre il pellegrinaggio di Ars. Fu per l'opera sua che il culto alla giovane santa si estese presto non solo nei paesi vicini ma in tutta la Francia. È probabile che se il santo non avesse proclamato per 30 anni le sue lodi, Santa Filomena non avrebbe avuto l'immensa fama di cui godette in tutto il secolo XIX. Prima del 1830 ben poco si era parlato di lei. Soltanto il 24 maggio 1802 un operaio, intento a sgombrare una galleria nelle catacombe romane di Santa Priscilla, aveva scoperto la sua tomba, un loculus scavato nella parete della galleria stessa e chiuso con 3 mattoni sui quali era dipinta col minio l'iscrizione Pax Tecum Filumena. Le ossa indicavano una giovane di 14 o 15 anni. Vicino al capo, spezzata in minuti frammenti, si trovò una fiale di vetro che senza dubbio aveva contenuto alcune gocce di sangue e che la Chiesa considera come una prova del martirio. I resti di Filumena furono portati nella custodia delle sante reliquie. Dovevano rimanervi, quasi abbandonate, fino al giugno 1805, quando vennero ottenute da un missionario di Mugnano, Don Francesco de Lucia. A Mugnano, piccola borgata nel reame di Napoli, l'arrivo delle reliquie fu festeggiato con entusiastica partecipazione di popolo e Filumena manifestò tosto la sua potenza con meravigliosi prodigi. Ma la Francia non intese il racconto di queste meraviglie se non verso il 1815. I Fate Bene Fratelli, o Frati di San Giovanni di Dio, cacciati dalla burrasca rivoluzionaria, percorsero la Francia di città in città. Si erano messi a mendicare per procacciarsi le risorse necessarie alle loro opere e, facendo la loro questua, cantavano il compianto di Santa Filomena. Il loro superiore, il padre di Magaglion, passò a Lione, ospite della ricca famiglia Jaricot. Prima di partire, cedendo ai desideri di Paolina, allora di 17 anni, le consegnò una reliquia di Santa Filomena che aveva recato con sé da Mugnano. Di questa reliquia Don Vianney ottenne una particella e fu in questo modo così umile che la piccola Filumena entrò in Ars. Ella aveva una duplice missione, una pubblica ed una intima. Non doveva essere solamente agli occhi della folla la celeste taumaturga, la cui preghiera ottiene ogni miracolo, ma tra lei e il santo sacerdote si doveva stabilire una casta e misteriosa intimità. Ella sarebbe la sua Beatrice, il suo ideale, la sua dolce stella, la sua guida, la sua consolatrice, la sua pura luce. E questa mistica amicizia divenne tanto viva e profonda che poté essere descritta con queste belle parole. Fin da principio, la cara piccola santa corrispose alle attrattive del suo servo e dei loro cuori andarono così intimamente unendosi che negli ultimi anni non si aveva più tra essi solamente una relazione a distanza, ma un vero commercio diretto ed immediato. E da allora il santo vivente ebbe con la beata la familiarità più dolce e più intima. Da una parte si ha una continua invocazione e dall'altra un'assistenza sensibile, una specie di presenza reale. Questo amore ardente e quasi cavalleresco non sa celarsi in fondo al cuore. La folla dei pellegrini ne riceverà le confidenze e ne raccoglierà i benefici. Innumerevoli volte ogni giorno Don Vianney consiglierà dal pulpito, nel confessionale, sulla piazza, di ricorrere alla sua cara piccola santa, sua consigliera, suo prestanome, sua incaricata d'affari presso Dio. E mentre sarà afflitto dalla incomprensione e dalla ostilità degli uomini, mentre sarà tormentato dalle incessanti ossessioni diaboliche, la sua immortale amica lo visiterà e gli porterà conforto. Per questo il curato d'Ars potrà conservare anche negli anni della sua vecchiaia la gaiezza, il vigore morale, la giovinezza del cuore, presagio in lui dell'immutabile giovinezza degli eletti. Le prevenzioni del clero. L'ignoranza del curato d'Ars. Nel grande movimento della folla che si dirigeva sempre più numerosa verso il villaggio d'Ars, il clero non ebbe molta parte, forse perché ai preti, anche zelanti, era sembrata cosa strana che si andasse a consultare il curato di una parrocchia di 200 abitanti. «Non è un uomo come gli altri», opponeva la voce popolare. Era fin troppo chiaro. Difatti, il suo esterno già rivelava quello che egli era in realtà, un eccentrico che avrebbe fatto meglio a comportarsi come fanno tutti. Dapprima alcuni suoi confratelli giudicarono severamente il suo vestire dimesso e in certi suoi modi di fare non videro se non il risultato d'una originalità amata e cercata con compiacenza. E così reputarono bizzarria quello che in realtà nell'intenzione non era che perfezione e santità. Il signor curato, ha detto Gianna Maria Scianai, la lavandaia dell'orfanotrofio e della canonica, amava l'ordine e la pulizia. Ne è prova il fatto che cambiava molto spesso la sua biancheria. Ma queste particolarità intime rimanevano ignote al pubblico che giudicava dall'esterno e se Don Vianney amava la pulizia, il suo aspetto trascurato parlava in senso un po' diverso. Per propria volontà, per mortificazione, per spirito di umiltà, indossava una veste logora, un cappello sdrucito e scarpe rappezzate, che ignorarono sempre il lusso del lucido. Anche nelle riunioni ecclesiastiche, le sole alle quali partecipava, appariva sempre povero e spregevole. Si comprende che un abbigliamento così meschino, di cui si ignorava la causa profonda, non poteva piacere a tutti i membri del clero, specialmente ai preti lionesi, dei quali è noto il senso della dignità e il decoro esteriore. I contemporanei di Don Vianney giudicarono riprovevole la sua negligenza, che chiamavano sfacciata trascuratezza. Alcuni lo tacciarono d'avarizia. Non poteva anche con magre risorse procurarsi vestiti più decenti? Alcuni vedevano nel suo caso una mancanza di criterio, altri dell'ipocrisia, un'ambizione velata, un segreto desiderio di attirare l'attenzione. Di qui nascevano contro di lui antipatie e ripugnanze che gli venivano manifestate con parole e con atti. Così nella riunione mensile un ecclesiastico rifiutò di rimanergli accanto se non si fosse presentato con un cappello più decente. Gli si lanciavano frasi scherzose che egli riceveva allegramente ripetendo: «Questo va bene per il curato d'Ars. Quando si è detto curato d'Ars, si è detto tutto». Spesso però agli scherzi, accettati così benevolmente, veniva aggiunta anche una punta di acredine, come ebbe occasione di constatare anche Monsignor De Vie. Il vescovo di Belley, che presiedeva a un pranzo alla chiusura della missione di Trevoux, aveva voluto che Don Vianney prendesse posto accanto a lui. Senza dubbio voleva dimostrare la sua stima per l'umile prete, già vittima delle calunnie. Aveva saputo scorgere in quel povero prete un'attrattiva che non viene dall'uomo e che conduce all'esercizio eroico delle virtù. In principio del pranzo un invitato si permise di mormorare a voce abbastanza alta da poter essere udito: «Il curato d'Ars, che è vicino a Monsignore, non porta neppure la fascia». Si deve ritenere che per tolleranza la fascia in quest'epoca non fosse parte essenziale dell'abito ecclesiastico. Il prelato e Don Vianney ascoltavano in silenzio. La risposta non si fece attendere e venne da un venerando sacerdote: «Val di più il curato d'Ars senza fascia che un altro con la sua fascia». «Ben detto», conchiuse Monsignor De Vie, e si lasciò tranquillo il santo. Il curato Vianney si dimostrò sempre insensibile alle critiche sulla sua mancanza di decoro esteriore. È comprensibile. Aveva sposato Madonna Povertà come San Francesco d'Assisi e Benedetto Labre. Ma il clero preparò per lui altre opposizioni che gli riuscirono croci pesanti. Un tempo aveva passato ore di amarezza profonda quando in Ars e nei dintorni la malevolenza si sfogava contro la sua reputazione di prete austero e casto. Ora si volevano trattenere le anime che andavano a lui. Sarebbe stata scusata la trascuratezza del suo abito se si fosse trattato di un prete dotto, esiliato per amore di studio in quell'angolo di terra ignota, ma i suoi confratelli avevano buona memoria e sapevano che Don Vianney era certamente un uomo buono, affabile di gran cuore, zelante. Ma che studi di teologia aveva fatto? Aveva passato 5 mesi al Sant'Ireneo di Lione e di là, non conoscendo quasi nulla di latino, era stato dimesso a metà dell'anno scolastico. Dopo un tirocinio, per modo di dire, alla canonica di Écully, aveva ricevuto l'ultima parrocchia della diocesi, povero Don Vianney, e tanti ingenui correvano a consultarlo. Ma che aveva di straordinario? Gli stessi consigli, frutto anzi di una più vasta esperienza di anime, ciascuno avrebbe potuto averli nella sua parrocchia. «Non è più abile di noi», si permetteva di dire un giorno in presenza della signora di Siben, un prete che parlava del curato d'Ars. Ma la folla si rivolgeva a questo prete sempre più numerosa, formando un ininterrotto pellegrinaggio che poteva diventare uno scandalo. Perciò era tempo di fare aprire gli occhi agli ingenui. Perché non si ricorreva all'autorità superiore? La via che si seguì fu proprio questa. Già in precedenza molti preti avevano proibito ai loro penitenti di recarsi ad Ars, sotto pena di negar loro l'assoluzione. Altri avevano lanciato la proibizione dal pulpito, Infine, alcuni si credettero in dovere di far sapere al vescovo quale nuovo pericolo minacciava tante povere anime. E gli accusatori, dice Caterina Lassagne, credevano senza dubbio di agire con ragione. Giudicavano cioè incapace Don Vianney. A questo punto è indispensabile far luce sulla pretesa ignoranza del curato d'Ars, e ciò perché si tratta di una leggenda che va sfatata. Il santo non sentì mai l'attrattiva della semplice curiosità letteraria e, durante tutta la sua vita di sacerdote, non si permise mai nessuna lettura di puro gradimento, neppure quella del giornale. Gli annali della propagazione della fede furono i soli che egli consultò. I suoi studi, da fanciullo e da giovane, troppo affrettati, lasciati molte volte e ripresi poi con perseveranza, ebbero una ripercussione sulla sua vita intera. Fu vittima delle circostanze. Non si rimane senza conseguenze in uno stato di inerzia intellettuale fino a 20 anni. Egli conobbe senza dubbio il nome dei grandi del passato. Forse ad Écouilly, presso Don Balley, lesse anche frammenti di opere famose, ma se giudichiamo dalle apparenze, non ne conservò ricordi precisi e soprattutto invano si cercherebbe nei suoi sermoni una sola citazione profana. Ma l'insufficienza intellettuale del curato d'Ars venne senza dubbio esagerata. Con quella umiltà che a noi sembra eccessiva, ha fornito agli accusatori prove, o meglio armi, contro di lui. Si credeva molto ignorante e ripeteva: «Cosa volete? Non ho fatto studi». Don Balley si è sforzato per 5 o 6 anni di farmi imparare qualche cosa, ma ha perduto il suo tempo, nulla mi è entrato in capo. E non soddisfatto aggiungeva: «Quando sono con gli altri preti sono come un bordino, un idiota del paese. In una famiglia c'è sempre qualcuno che ha meno ingegno degli altri. Tra i preti sono io quello». Già vecchio, vedendo un suo ritratto, realizzato senza fedeltà all'originale, diceva sorridendo: «Sono proprio io, guardate che aria stupida». Questa eccessiva diffidenza verso se stesso avrebbe potuto paralizzare le sue capacità e renderne vane le risorse, ma l'amor di Dio e del prossimo lo obbligarono, durante l'azione del suo ministero, a manifestarsi quale egli era. Qualche volta lasciò ad altri incarichi che avrebbero potuto aumentarlo nella considerazione della gente. Al confessionale, dice la baronessa di Belvey, ho sperimentato che parlava correttamente il francese, ma nelle sue prediche sembrava lasciarsi sfuggire apposta qualche parola poco felice, soprattutto se vi erano persone distinte nell'uditorio. Insomma, se osserviamo la sua costanza nel lavoro, il suo spirito riflessivo, la freschezza della sua immaginazione, il tono vivo e fine delle sue osservazioni, dobbiamo trarne la conclusione che il Vianney non era un ignorante. Sempre la baronessa di Belvey, persona di spirito che aveva conosciuto bene il curato d'Ars, diceva: «Non possedeva quello che comunemente si chiama genio, ma la sua intelligenza era palese». «Ho udito da lui», dice Caterina Lassagne, «delle cose che non ho mai sentito da nessuno e che non ho neppure letto nei libri». Non era stata senza frutto la preparazione così faticosa dei suoi discorsi, nei quali metteva tutte le sue risorse, assicurandosi una dottrina sempre precisa. Simile rettitudine esigeva anche dai preti che invitava a predicare nella sua parrocchia. Un giorno rimproverò cortesemente un sacerdote che aveva dipinto il purgatorio in un modo un po' fantastico. Fino agli ultimi giorni della sua vita si fece un dovere di ripassare i suoi autori. Quando l'affluenza dei pellegrini lo imprigionava nel confessionale, non aveva molte ore a disposizione per far questo. Quando veniva la cattiva stagione, ogni sera studiava. Il suo primo coadiutore, Don Raimond, dice che gli procurò personalmente gli esami del Valentin e la teologia morale del Gusset, che il santo ebbe cura di rileggere ogni inverno. Lentamente ed a prezzo di grande fatica aveva assimilata la scienza teologica nella sua espressione genuina. Così, sull'Eucaristia, sull'utilità e sulla grandezza del sacerdozio cattolico, sulla meditazione della Santa Vergine, ha vedute luminose e profonde, qualche volta degne di un padre della Chiesa. Si poteva forse chiedergli qualche cosa di più? possiede la scienza del prete, quella che poteva essere richiesta dai doveri del suo ministero. Giustamente le anime vengono a cercare da lui qualche cosa di più elevato e di diverso dalle scienze umane. Oltre alle conoscenze acquistate con lo studio, spesso l'intelligenza dei santi ha lumi che solo un intervento soprannaturale può spiegare. Ad un professore di filosofia si diceva che nel curato d'Ars vi era la santità, ma nulla d'altro. Egli rispondeva: «Vi sono in lui come chiare luci che si riflettono su ogni argomento che tratta nella sua conversazione. Come è bella e sicura la luce che viene dallo Spirito Santo! A quale altezza di sentimenti e di ragione ci eleva la fede!» Il medesimo pensiero venne espresso assai felicemente da un'anima che aveva ben scarse conoscenze filosofiche, Caterina Lassagne, che dice: «Il signor curato si riteneva così povera cosa che lo Spirito Santo si compiaceva di colmare questo vuoto con la sua sapienza mirabile. Un mio amico prete», diceva il padre Cirillo Febvre, missionario di San Claudio, «si era presentato a Don Vianney per farsi spiegare un caso di teologia dei più complicati e mi confessò che rimase meravigliato della prontezza e della facilità con il quale il servo di Dio aveva dato una soluzione ad una certezza sorprendente. La chiave dell'enigma ce la diede il curato d'Ars medesimo, quando in uno dei suoi catechismi disse: «Coloro che sono guidati dallo Spirito Santo hanno idee giuste, vi sono ignoranti che ne sanno più dei sapienti». Ma l'azione più sorprendente dello Spirito Santo è operata nell'intimo, senza alcuno strepito, senza fretta e senza violenza, e per questo non fa meraviglia che ancora per molto tempo Don Vianney sia stato oggetto di una stima limitata, quasi di prete insufficiente, per la scarsità dei suoi risultati nel periodo degli studi. Sacerdoti di più ampie vedute dichiararono in seguito quello che l'umiltà del santo non poteva che tacere, ma molti allora si ostinavano a non vedere in lui che un ignorante audace. Si rivelava contrario a certe vocazioni che altri appoggiavano, dava senza enfasi risposte che implicavano i casi più ardui di tutta la teologia morale. Alcuni penitenti erano trattati con estrema indulgenza, mentre ad altri era riservata un'accoglienza eccessivamente severa. Chi poteva capire? Era vero però che queste osservazioni si ripetevano di canonica in canonica senza altra base che i «si dice», perché si può ben ritenere che i suoi censori non abbiano avuto l'onestà di consultarlo direttamente o di inginocchiarsi ai suoi piedi nel confessionale. E qualche volta si verificava anche il caso di persone poco istruite che, malinterpretando certe sue risposte, gli facevano dire cose che egli non aveva mai pensato. Chi erano costoro? Esaltati o semplicemente anime deboli, scrupolose, sempre insoddisfatte delle direzioni ricevute, perché non si accordavano con le proprie esigenze o con i propri sogni, e che si univano ai pellegrini come vespe in mezzo alle api. Il santo non riservò mai aspra accoglienza a nessuno, ma non poteva accontentare tutti. Con talune persone di limitata intelligenza bisogna sempre essere brevi, ed egli le rimandava senza aver detto altro che le parole appropriate. Qualche volta, anche in previsione di udienze importune, fastidiose o ridicole, si rifiutava di riceverle. «Liberatemi da questa persona», disse un giorno con voce calma a chi aveva l'incarico della sorveglianza. «Fatela ritirare, che è degna di compassione». E quale non fu il dolore e la sorpresa del santo quando gli giunse l'eco dei lamenti e delle mormorazioni. Povero curato d'Ars, gemeva quando gli si fa dire e quando gli si fa fare. Ormai si predica su di lui e non più sul Vangelo. Cominciarono a giungere lettere, la maggior parte anonime, nelle quali gli si faceva rimprovero dello zelo intempestivo e soprattutto del fatto che attirava nella sua chiesa una moltitudine di donne senza giudizio, che avrebbero fatto meglio a rimanere nella propria parrocchia. Questo era anche il pensiero del santo, che si scusava: «Ma non sono io che dico loro di venire». Da un prete che si diceva rappresentante di una buona corrente di ecclesiastici, ma che non voleva assumere responsabilità e si guardò bene dal firmarlo, ricevette un biglietto di questo tenore: «Si dice che siete un santo e tuttavia non tutte le persone che vengono a vedervi tornano convertite. Fareste bene a moderare il vostro zelo malinteso, in caso diverso ci vedremo costretti, qualunque a malincuore, a riferire la cosa a Monsignore. Ma la calligrafia aveva tradito l'autore e Don Vianney gli rispose così: «Signor parroco, vi sono sinceramente riconoscente dei consigli caritatevoli che avete voluto darmi. Confesso la mia ignoranza e la mia incapacità. Se vi furono persone delle parrocchie vicine che si sono confessate da me e che non si sono convertite, ne sono profondamente addolorato. Se credete, potete scrivere a Monsignore, il quale, lo spero, avrà la bontà di correggermi. Raccomandatemi a Dio, reverendo, perché io faccio un po' meno di male e un po' più di bene». Tale risposta ebbe l'effetto che si poteva prevedere. L'autore della lettera si affrettò a scusarsi presso Don Vianney con un'altra lettera, non più anonima naturalmente. Così caddero a poco tutte le prevenzioni che erano sorte contro il curato Vianney. Bastava avvicinarlo o semplicemente conoscerlo meglio per sentirsi disposti a cedere le armi. Un religioso che era venuto ad Ars trattando da fanatico colui che già tutti chiamavano santo, ne ripartì ammirato per la luce e per la virtù del servo di Dio. La baronessa di Belvey riferisce: «Ho conosciuto Don Tournier, morto parroco di Seyseriat, che scherzava spesso sul servo di Dio senza averlo mai visto. Venuto ad Ars, scoppiò in lacrime appena lo ebbe sentito parlare, e da quel momento non solo non si permise più alcuna parola contro il servo di Dio, ma neppure tollerò che in sua presenza si parlasse male di lui. Consigliai un giorno ad uno dei contraddittori del santo, a lui ostile da 16 anni, di venire ad Ars per dare un giudizio personale, e difatti, quando vi passò, si fermò ad una predica, riportandone tale impressione che non sapeva più in che termini manifestare la sua ammirazione. Un'albergatrice di Ars mi ha raccontato, dice Caterina Lassagne, che un prete che ospitò era venuto ad esaminare il curato d'Ars e che, quando lo avvicinò in sagrestia per metterlo in imbarazzo con le sue domande, si era sentito così intimidito da non pronunciar parola, e aggiungeva: «Ho predicato anche davanti a vescovi, ma non mi sono mai sentito così privo di coraggio». Gli attacchi diretti contro il santo furono isolati e divennero sempre più rari dal 1827 al 1840. Anche l'ultimo che conosciamo sortì un risultato sorprendente e merita di essere ricordato. Né sarà malcontento l'autore colpevole, morto poi nel 1872, anche se viene palesato il suo nome, perché si pentì generosamente, ebbe il perdono del santo, la sua amicizia e divenne uno dei suoi più ferventi ammiratori. Don Giovanni Luigi Borion, nato nel 1809 e quindi di 23 anni più giovane del santo, il 17 maggio del 1837 era stato nominato parroco di Ambérieu-en-Dombes. Don Nicolas, allora parroco di Saint-Rivier, dice che era di modi bruschi, cavallereschi e anche un po' troppo impulsivo. Quando giunse nella sua parrocchia, trovò che i fedeli facevano regolarmente il pellegrinaggio ad Ars, che distava da Ambérieu solamente 8 chilometri, e fu malcontento dell'esodo di buona parte della sua popolazione verso un santo che egli non conosceva neppure. Qualche volta dimenticò di predicare il Vangelo per predicare sul curato d'Ars. Infine si verificò una complicazione che fece divampare il fuoco. Come ci dice ancora Don Nicolas, alcune pie persone di Ambérieu avevano deciso, sotto la guida di Don Vianney, di organizzare una confraternita e di raccogliere a tale scopo del denaro, senza il consenso del loro parroco. Contro costoro egli era già indispettito, perché senza rivelargli la loro intenzione, gli avevano fatto celebrare una messa per ottenere che fosse allontanato da Ambérieu e che in sua vece fosse chiamato Don Vianney. Una domenica lasciò libero sfogo a personali amare considerazioni. Tutti compresero contro chi erano dirette. L'eco giunse presto ad Ars, tanto più che Don Borion, esagerando le cose, si era permesso di scrivere una lettera dura quanto ingiusta, nella quale aveva inserito questa frase: «Signor curato, quando si sa così poco di teologia, non si dovrebbe neppure osare di entrare in un confessionale». La lettera ebbe gravi conseguenze. Il povero Don Vianney andò a confidare il suo dispiacere ad un uomo della sua parrocchia, particolarmente caro, al vecchio sindaco Mandy. Questa lettera, gli diceva il sindaco, fu certo scritta da una persona poco educata, non è il caso di darle importanza. No, no, è di una persona istruita, e confermando che era stata scritta da un confratello, aggiunse: tutto questo non mi farebbe alcuna pena se non pensassi che in tal modo si è offeso il Signore. Poi rientrò nella sua camera, presa la penna e scrisse, lui che non scriveva mai, questa risposta semplice e sublime, riflesso dei sentimenti che erano nel suo cuore. Mio carissimo e venerato confratello, quante ragioni ho io di amarvi! Voi siete il solo che mi ha conosciuto bene, poiché la vostra bontà e carità vi hanno ispirato di interessarvi della povera anima mia. Aiutatemi anche ad ottenere la grazia che da sì lungo tempo domando di essere sostituito nel posto che occupo e del quale sono indegno in causa della mia ignoranza, perché io possa ritirarmi in un piccolo angolo a piangere la mia povera vita. Quante penitenze mi restano da fare, quante espiazioni da offrire, quante lacrime da versare. Questi non sono i termini coi quali si esprime la falsa umiltà, ma sono espressioni superiori a quelle che possono essere suggerite da una virtù affettata. Sono accenti che vengono spontanei a chi vuol seguire l'esempio sublime del Cristo. I misteri dolorosi della vita del Signore erano diventati la sua abituale meditazione. Non è necessario aggiungere che Don Borion si sentì vinto da questa risposta e che corse a prostrarsi ai piedi del santo per chiederne il perdono. Il curato d'Ars, che aveva già tutto dimenticato, lo ricevette con un benevolo sorriso e lo abbracciò a lungo. In seguito, il parroco d'Amberieu si mostrò sempre degno di un tale perdono e venne più volte ad edificarsi alla vista degli esempi che si avevano ad Ars, nonché a prendere i consigli del santo. «Dopo che lo vidi», diceva egli a Monsignor Mermod, «ho cambiato opinione. Ogni anno gli condurrà i bambini della prima comunione perché il curato d'Ars li benedica». È divenuto parroco di Saint-André d'Oria nel giugno del 1852, avrà l'insigne onore di portare la sua testimonianza alla causa del servo di Dio e di confermare con giuramento che egli ebbe per il santo di Ars grande amicizia, grande stima e grande venerazione. Le denunce al vescovado. Al santo non erano ignote le accuse che erano state portate al suo vescovo contro di lui. I confratelli lo consigliavano talvolta di difendersi, ma egli preferiva tacere, giustificando il suo contegno con una leggenda che gli era diventata familiare meditando un libro tanto caro, La vita dei santi. Un santo comandò un giorno a uno dei suoi religiosi di andare al cimitero e parlare male dei morti, e al ritorno chiese se mai i morti avessero detto qualche cosa. Alla risposta negativa, il santo comandò ancora al religioso di recarsi un'altra volta al cimitero e di fare dei morti i migliori elogi. Al ritorno chiese ancora se avessero risposto a qualche cosa e dal religioso, che asseriva come nessuno avesse parlato, offriva questo commento: «Tanto quando vi si lanciano ingiurie come quando vi si fanno delle lodi, fate come i morti». Un giorno, in uno dei suoi sermoni, diceva: «Ho ricevuto oggi due lettere. In una mi si dice che sono un santo e nell'altra che sono un ciarlatano. La prima», soggiungeva, «non mi ha aggiunto nulla e la seconda non mi ha tolto nulla». E fu dopo la lettura di una lettera simile che diceva quasi contento: «Ecco uno che mi conosce bene. Se l'orgoglio mi tentasse avrei di che ravvedermi». Il curato d'Ars non si accontentò di accogliere il biasimo con questa filosofia soprannaturale, ma approfittò anche delle persecuzioni di alcuni suoi confratelli per assicurarsi un nuovo merito di umiltà. Egli stesso firmò e mandò al vescovado una lettera di denuncia che per caso gli era capitata fra le mani. «Ora», diceva, «si ha anche la mia firma. Non manca nulla perché abbiano piena convinzione». Monsignor De Vie fu un grande santo vescovo. Era anche l'uomo meno disposto a lasciarsi impressionare da false denunce e per dare un giudizio sicuro mandò a fare un'inchiesta il suo vicario generale canonico Rivet. Questi, apparentemente rigido e rigoroso sostenitore della disciplina, fermo in modo da sembrare talvolta eccessivamente severo, aveva un cuore buono e compassionevole. Desiderando essere indulgente con Dovianney, gli bastava essere giusto. Il curato d'Ars gli disse che tutti lo venivano a trovare liberamente senza che egli andasse a cercare nessuno, che quando si trovava in presenza dei penitenti rispondeva quello che credeva meglio secondo la sua coscienza. che la sua carica di pastore d'anime, tenendo conto della sua ignoranza e della sua miseria, era un peso ben grave sulle sue spalle e che già due volte si era raccomandato al suo vescovo perché lo togliesse da Ars. L'inchiesta diede un risultato ben diverso da quello che egli pensava. Riteneva che l'indagine fatta in casa sua, nella sua parrocchia, avrebbe consigliato il vescovo a lasciarlo partire e fu con vivo rammarico che intese il vicario generale, che non si era accorto della sua presenza, dire queste parole. Se la denuncia fosse vera, non si vedrebbero qui tanti pellegrini, compresi preti e religiosi. Si comprende che queste parole erano il preludio del favorevole rapporto che il vicario avrebbe fatto a Monsignor De Vie. Più tardi, assunte più ampie informazioni, il presule si limitò a chiedere al curato d'Ars che sottomettesse al consiglio del vescovado i casi difficili incontrati nel suo ministero ed anche le soluzioni da lui prospettate. Il buon sacerdote accettò volentieri l'ingiunzione ed in pochi anni sottopose più di 200 casi di coscienza. Ne fece l'esame Monsignor De Vie, il quale constatò che la soluzione era sempre esatta e la pratica di Don Vianney sempre superiore ad ogni eccezione. Un giorno, dice la contessa di Garez, mi sono permessa questa riflessione alla presenza di Monsignor De Vie. Generalmente si ritiene che il curato d'Ars sia poco istruito. Io non so se sia istruito, replicò il vescovo, ma so che lo Spirito Santo si incarica di illuminarlo. Lo stesso Monsignor De Vie si rammaricò quando sentì che alcuni ecclesiastici si erano permessi espressioni poco favorevoli su Don Vianney e sul suo modo di fare, considerandolo addirittura pazzo. Signori, disse a chi gli raccontava questo fatto, io auguro a tutto il mio clero un granello di questa follia. I sentimenti del clero verso il curato d'Ars. Monsignor De Vie non aveva aspettato nemmeno 10 anni per onorare il nostro santo di tutta la sua fiducia. Il 15 settembre 1832, forse in un corso di esercizi spirituali, Don Vianney aveva chiesto la facoltà per le confessioni nella parrocchia di Chanin, dove doveva tenere un corso di missione, compresa la giurisdizione nei casi riservati. Il vescovo, con prudente consiglio, accolse favorevolmente la domanda ed aggiunse di propria mano sulla tabella della facoltà «Item pro tota diecesi», così anche per tutta la diocesi. Non è necessario dire che il contegno del presule e la sua benevolenza verso Don Vianney furono una rivelazione per il clero della diocesi e soprattutto una lezione per i contraddittori del santo. Ma non tardò a venire il giorno nel quale, a parte qualche lagnanza su questioni di poco conto, il nome del curato Vianney corse sulle labbra di tutti i suoi confratelli in un coro unanime di lodi. Anche coloro che da principio avevano prestato facile orecchio a stolide mormorazioni videro cadere i loro pregiudizi dal momento in cui ebbero la fortuna di considerare da vicino che cosa era la parrocchia di Ars. Il conte di Garez ha detto bene che il clero dei paesi vicini, che conosceva Don Vianney, professava per lui stima ed affetto, ed anche il clero delle parrocchie lontane, che dapprima aveva dubitato della sua scienza, cambiò presto parere ed ebbe grande fiducia nelle sue illuminate decisioni. Basta una circostanza a confermare che il numero degli oppositori del nostro santo finì presto per assottigliarsi. Quando prese parte per l'ultima volta agli esercizi spirituali nel seminario di Bourg nel 1834, il curato d'Ars fu iscritto da Monsignor De Vie nella lista ufficiale dei confessori. Questo bastò perché la maggior parte dei preti si indirizzassero a lui, tanto che non gli rimase più un momento libero né per l'orazione e la meditazione né per seguire le istruzioni. E questo ci dice, osserva Caterina Lassagne, che lo si riteneva già un buon servo di Dio.